L'agenda culturale italiana ed europea, presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Laranda, regia di Danny M. Cari amiche, cari amici, Bruxellando, Radio Alma, bentrovati, bentrovate. Ed eccoci nuovamente qui, in questa oscillante Bruxelles, tra caldo, pioggia, vento, nubi fragi. E questa sera cade proprio a fagiolo anche il clima, perché avevamo scelto questa puntata un po' particolare, che voleva essere una puntata di transizione sul deserto. Dove per deserto possiamo intendere poi tanti, tanti aspetti. Il deserto non è soltanto sabbia, non è soltanto all'apparenza mancanza di vita, anzi al contrario, nel deserto si sviluppano tante altre forme di vita, tanti modi di adattarsi a questo clima che può sembrare così infausto. E Bruxellando questa sera cercherà di delinearvi in maniera ovviamente letteraria e poetica le diverse interpretazioni che si possono attribuire ovviamente al deserto. Tuttavia, già che parliamo del deserto, questa sera abbiamo pensato di dedicarvi un primo ciclone, così variamo un attimo le abituali sezioni della nostra ora insieme e dedichiamo quindi un primo quarto d'ora, 20 minuti, vediamo quali sono le esigenze poi di Paolo e Stefano, quindi all'angolo del jazz. Seguirà poi Fiordaliso con il suo libero angolo e poi ovviamente la sezione più puramente letteraria ed ovviamente l'agenda di quelli che saranno gli eventi a Bruxelles da martedì a martedì prossimo. Quindi lascio la parola a Stefano e Paolo, che ringrazio come sempre della puntualità e della precisione, e sono davvero ansiosa di ascoltare i vostri suggerimenti. Grazie Mary D, noi siamo pronti, non siamo in mezzo al deserto, ma la temperatura più o meno è quella. Buonasera, temperatura calda e avvolgente. Questa sera iniziamo subito con un artista caldo che ci piace farvi sentire molto spesso. Sì, è un artista che tanti anni fa appunto parlò di deserto con un disco straordinario e molto innovativo, un po' di rottura. Si tratta di Santana col suo disco Caravanserai. Ma che cos'è un caravanserai? Caravanserraglio è un edificio in cui le varie carovane in mezzo al deserto si riposano, si rifocillano, quindi è un po' un punto di riferimento, è un punto di arrivo, un punto di partenza. Ecco, quello che diceva prima Mary D, nel deserto si possono trovare tante cose, il caravanserraglio sicuramente è una di queste cose, e anche idealmente il disco del 1972, quindi un bel po' di anni fa, è un disco in cui si trovano dentro musicalità diverse, no? Si pensava allora a Santana come un chitarrista rock, Woodstock e tutto il resto, poi se ne esce con questo disco che invece ha delle sonorità che si allontanano un po' dalla sua cultura e si avvicinano al jazz di allora, e lo sentiremo anche in questo pezzo che faremo ascoltare. Bello, un disco misterioso, come spesso nelle atmosfere di Santana, atmosfere cariche di atmosfere di mistero. Partiamo con Santana, Every Step of the Way, Caravanserrai, 1972. Thank you. Santana, un sacco di percussioni in questo pezzo. Beh, una sua caratteristica che si è portata dietro in tutte le evoluzioni che ha avuto. È interessante anche il titolo Every Step of the Way, no? Ogni punto del cammino, della strada, anche qui ci fa pensare un po' al deserto, al movimento, al fatto di dover fare delle tappe. La caravana. E nella prossima tappa del cammino di oggi rimaniamo in atmosfere desertiche con un musicista che è riuscito a combinare la tradizione folk anche amarica, cioè etiopica, con la musica jazz. È un musicista che si chiama Mulatu Astatke, ha avuto un momento di popolarità particolare grazie al quale molti l'hanno conosciuto con la colonna sonora di un film di Jim Jarmusch del 2005 che si chiamava Broken Flowers. Sì, credo che sia interessante anche dire un po' il suo percorso, perché appunto il jazz africano non è certo il jazz più conosciuto, ma lui ha come caratteristica il fatto di aver avuto una formazione in varie parti del mondo, Londra, New York, Boston, e soprattutto è interessante a proposito di Boston dire che è stato il primo studente africano del prestigiosissimo Berklee College of Music, di cui abbiamo parlato varie volte. Certo, un bel tocco di Africa a Berklee, e ha studiato, ha suonato anche con Duke Ellington negli anni 70, e combina nella sua musica in modo molto particolare, sentirete dei fiati che hanno sicuramente un sapore etnico che ci porta nel deserto, una ritmica però che è tra il jazz e in realtà anche più vicina a cose di musica afroamericana sentita negli anni 70 ad esempio, per cui è un connubio veramente interessante e che ha una punta di un concetto che poi tornerà nella musica di questa sera di ripetitività, sentirete ipnotica. Andiamo con Mulatu Astatke. Statche. Anche qui delle percussioni dominanti che fanno un po' tutta la base del pezzo, interessantissimo. E così rimaniamo nel deserto con gli africani, ma forse adesso i nostri ascoltatori hanno anche un po', mi ha fatto un po' venire l'acquolina in bocca di sentire la musica dal vivo, cioè potremmo avere un annuncio da fare a questo proposito qui a Bruxelles. Ma facciamo l'annuncio. Bene, a Bruxelles nel prossimo fine settimana, 29, 30 e 31, ci saranno una serie di concerti che vanno sotto il titolo di Brussels Jazz Marathon. La maratona del jazz di Bruxelles, che è un'iniziativa di grande respiro, molto nota oramai a livello europeo per la quantità e la qualità dell'offerta. Dal 29 al 31 maggio c'è un sito internet completo con il programma, che è www.brusselsjazzmarathon.be, e vi diciamo qualcuno dei musicisti più interessanti che suonano in questo programma. Sì, in realtà diciamo innanzitutto che copre un po' generi molto diversi all'interno del jazz, andiamo dalla big band al quartetto, Phil Robinson Golden 80s, quindi abbiamo veramente un ampio aspetto. E soprattutto un altro aspetto interessante secondo me è che questa maratona si svolge in diverse ore del giorno, quasi tutte, diciamo nel pomeriggio in quasi tutti i casi, in diversi luoghi di Bruxelles, anche dei luoghi molto belli, quindi la Grand Place, il Sablon, Saint-Catherine. Forse ascoltare la musica in questi luoghi così aiuta ancora di più ad apprezzarla, sempre sperando che il tempo sia buono, facendo dovuti scongiuri. Certo, c'è anche qualche podio coperto, ma ce n'è per tutti i gusti. Questo è anche importante da sottolineare, come dicevi, tanti generi. Vuol dire anche che chi a volte non è incuriosito solo dalla parola jazz potrà trovare musica latina, musica funk, c'è cioè del rock, ci sarà della musica blues. È un modo di fare sperabilmente bella musica in un quadro conviviale, piacevole. Ma c'è qualche artista che ci consigliate in particolare? Allora, tra i tanti nomi, grazie Mary D per aver cercato, che sono veramente tantissimi nomi, e molti sono nomi evidentemente di musicisti locali, che nulla toglie, locali intesi dell'area, non solo belgi, che nulla toglie la loro qualità, assolutamente. Ma fra quelli che almeno io conosco c'è un pianista che si chiama Dado Moroni, molto bravo, ha suonato anche all'estero molto spesso, che suonerà sabato 30 maggio dalle 5 alle 6 e mezza con il Bert Joris Quartet alla Grand Place. Non so dirvi, appunto, gli altri tre io non li conosco, ma sicuramente su lui posso garantire che è un gran bel pianista, molto bravo, molto eclettico. Perfetto, per cui Brussels Jazz Marathon 29, 30, 31 maggio a Bruxelles, un po' dappertutto, dalla Grand Place al Sablon, a Saint-Catherine, Place Fernand Koch. L'indirizzo internet è www.brusselsjazzmarathon.be. Bene, adesso ritorniamo alla nostra musica, al nostro deserto, e in questo caso a un musicista che viene dal deserto, potremmo dire, perché è un musicista tunisino, nato in Tunisia, che suona uno strumento tipico dell'area mediterranea, della sponda sud del Mediterraneo, e che è l'oud, che è una sorta di liuto, per cui uno strumento a corda con una bella pancia di legno voluminosa che il musicista tiene in grembo, e un ponte con dei tasti un po' come una chitarra, è un po' uno dei tanti antenati della chitarra. Ha un suono molto caldo, adesso lo sentiremo, anche se in questo contesto è un suono anche qui abbastanza mischiato con altre sonorità più moderne, con altre ritmiche, e questo forse lo rende ancora più interessante. Infatti qui è in coppia con un chitarrista austriaco abbastanza famoso, direi, si chiama Wolfgang Mutspiel, sì. Appunto hanno inciso questo disco, in cui vi sono varie, quelle che noi chiamiamo in passato, varie contaminazioni. È un disco del 2007, un disco molto recente, il disco si intitola Glow, e il pezzo che noi ascolteremo si intitola Babylon. Yeah. Youssef, compositore, come sentito, cantante e soprattutto un suonatore di questo meraviglioso strumento che è l'oud, che potete ben capire quanto può essere così malleabile per inserirsi anche in un contesto come quello che abbiamo fatto appena ascoltare. Bello. E adesso rimaniamo con uno strumento tradizionale che però, tirato fuori dal suo contesto, qui ha un ruolo molto particolare. Questo strumento... Lo dico io e sì. Poi tu spieghi che strumento è, vediamo se qualcuno sa, magari la pronuncia anche non è perfetta, ma si chiama didgeridoo. Yes. Io quando ho letto la prima volta ho guardato Paolo e ho detto che c'entra col deserto. Il didgeridoo è un tubo lungo di legno che è lo strumento tradizionale degli aborigeni australiani, che chi di voi ha visto anche film della grande tradizione popolare come si chiamava Crocodile Dundee hanno visto, ma sono un po' impegnati, non so, ecco, film impegnati visto. Ma è anche uno strumento utilizzato da molti musicisti negli ultimi 15-20 anni, uno su tutti, Jamiroquai per esempio, ed è uno strumento che ha una sonorità un po' particolare, perché pensate che è un tubo cavo di fatto di legno in cui gli aborigeni da secoli producono un suono riverberato soffiando aria all'interno. È un fiato di fatto, anzi ti ricordi la distinzione com'era, ottoni e legni qualche puntata fa? Sì, no, senz'altro in questo caso non ci troviamo di fronte a un legno, perché non c'è un'imboccatura, c'è una specie di grande apertura del tubo di legno che va nella bocca di chi suona, su cui c'è un impastamento di cera, tra l'altro. Io queste cose poi le so perché la mia sorellina suonava questo bizzarro strumento, ma insomma sì, è uno strumento che nella scena indipendente negli ultimi 20 anni si è trovato molto, e infatti qui lo riprende un gruppo focale per la scena indipendente, che è un gruppo di Chicago e si chiamano Tortoise. Chi ha seguito il rock indipendente negli ultimi 15-20 anni li conosce bene, è un gruppo che ruota attorno a John McEntire e che nella scena di Chicago ha lasciato un segno che poi si è sviluppato in tutto il mondo, molto importante. È interessante seguire il loro percorso in termini di definizione di generi che hanno coperto a partire dagli anni 90 ad oggi. Allora, sono stati definiti o comunque hanno passato delle fasi in cui hanno suonato krautrock, che è il rock tedesco di questi Kraftwerk e altri, dub, questa musica un po' ripetitiva, elettronica, giamaicana, jazz quasi d'avanguardia, e quello ogni tanto ve lo facciamo sentire anche noi, minimalismo, così questa branca della musica classica contemporanea, poche note ma buone, musica ambient, vuol dire che ti faccio una base e poi tu un po' t'arrangi, musica spaziale, musica di film e elettronica inglese. Voi adesso avendo a mente tutto questo potrete meglio apprezzare e capire il prossimo pezzo, che è basato, è proprio l'inizio, lo sentirete immediatamente, su questo strumento aborigeno. Esatto. Interessantissimo. Parte con didgeridoo e poi c'è questo tappeto sonoro che i Tortoise ricostruivano così bene, in modo molto originale, in cui vedrete che uno si aspetta sempre che parta uno strumento solista, invece non c'è, perché l'essenza è proprio in questa base che rimane molto avvolgente e che crea un'atmosfera particolare. Quindi relax, pronti alla base, Tortoise. Thank you. Didgeridoo, da Red Hot and Indigo, un film, no, potrebbe essere, ma sì, anche un film. È un pezzo del 2001 e così vi abbiamo introdotto a questo mix. Anche alla scena indie, tutto vi facciamo sentire brussellando, e con questo concludiamo il percorso di oggi nel deserto, nei suoni dall'Australia col didgeridoo, all'oud, alla musica africana, con Mulatu Astatke, al caravanserraglio di Santana. E nel nostro piccolo abbiamo dimostrato quello che Meridì diceva all'inizio: nel deserto accadono tante cose, anche musicalmente, e qui vi lasciamo al nostro prossimo appuntamento. Ciao, buona serata. Ed eccoci qua, ben trovati nuovamente. Sì, il deserto in realtà è un luogo estremamente ricco, variegato, bisogna solo capire cosa si vuole cercare nel deserto e poi comunque tentare questa avventura, questa scoperta. D'altronde è interessante, peccato che questa sera George non sia qui con noi, quindi caro George, rimettiti, noi siamo tutti con te, ti aspettiamo per la settimana prossima, perché la parola deserto non è solo un sostantivo, ma anche un aggettivo col significato di solo, abbandonato. Il latino desertum deriva dal verbo deserere, che significa abbandonare. Deserere a sua volta è composto da de, con un valore negativo, e quindi serere, legare, con significato finale, quindi non più legato. Quindi, come ci dicevamo prima, tra l'altro i deserti, tutti quanti abbiamo questa impressione che possa essere un luogo caldo, invece, sapete, possiamo distinguere tra i deserti caldi e quelli freddi, quindi insomma anche questi sono scoperti abbastanza piacevoli quando si pensa a queste sfaccettature diverse di cui parlavamo poc'anzi. Prima di continuare su questa nostra puntata alla scoperta del deserto, volevo ricordare qualche evento di questa ricca settimana a Bruxelles. Uno degli eventi che ha particolarmente attirato la mia attenzione è la giornata mondiale del gioco a Woluwe-Saint-Pierre, che però avrà luogo domani, quindi 27 maggio, ahimè, un lavorativo dalle 14 alle 18, in cui praticamente si darà la possibilità a, soprattutto ai bambini, di poter usufruire di questo grande evento. Ovviamente le porte sono aperte e il tutto sarà organizzato presso l'ASBL Centre Communautaire Crous Rue au Bois numero 11 a 1150 Bruxelles, a Woluwe, ovviamente Woluwe Saint-Pierre. Sembra essere uno spazio estremamente interessante, ovviamente per quanti amano il gioco, quindi dal gioco più semplice a quelli che sono i giochi della società, dei giochi di società, scusate, con possibilità anche di poter giocare attivamente, quindi insomma ci sarà la possibilità di rispolverare giochi magari di infanzia. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti dalle 14 alle 18 presso la Svel Centre Communautaire Crous, ripeto ancora, giornata mondiale del gioco a Woluwe-Saint-Pierre. Andando in ordine quindi in questa ricca settimana, perché come sapete il 1° giugno qui è un festivo, quindi sarà ugualmente un giorno di festa, apre finalmente, dopo una lunga attesa, riapre il museo di Magritte. Quindi finalmente, nuovamente, potremo rivedere e ammirare le opere di questo straordinario artista quale è stato Magritte. L'apertura avverrà alle 14, quindi sarà aperto dalle 14 alle 2, se non sbaglio il 2 giugno. E il prezzo è di 8 euro, ovviamente tutto questo alla Rue Royale 241000 Bruxelles. Mi raccomando, perché la prenotazione è obbligatoria. Per quanto vorreste saperne di più, itinerare.be è l'adresse, quindi l'indirizzo è Rue Royale 241000 Bruxelles. Infine, prima di cedere la parola ad Imola, come avrete potuto notare questa sera le agende sono state leggermente flessibili, quindi abbiamo spostato le differenti sezioni, la Domenica dei Creatori. Pare che questo sia uno degli eventi più imitato, però pare che nessuno riesca poi a cogliere le sfumature, così come accadrà il prossimo 31 maggio dalle 12 alle 20 presso la Confiserie a Rue des Tilleuls 80 1060 Saint-Gilles, con ingresso gratuito. Ci sarà la possibilità di poter acquistare di tutto, dai vestiti ai disegni, ai giocattoli, alle borse, alle t-shirt, addirittura lampade, quindi sculture, pitture, chi più ne ha chi ne metta, con la possibilità anche di poter usufruire di un, come si dice qui, di un verde lamisé, con anche la partecipazione di un DJ, di cui però non ci vengono ancora svelati i dettagli. Quindi, per quanti ovviamente volessero e sono stati incuriositi da questa descrizione, vi ripetiamo ancora: il 31 maggio dalle ore 12 alle ore 20 presso la Confiserie a Saint-Gilles. E per quanti invece fossero curiosi, per più informazioni, dimanchedecreateur.blogspot.com. A proposito di Blogspot, per quanti di voi oggi abbiano potuto visitare il nostro sito, il nostro blog, recentemente io e George siamo stati intervistati da una giornalista qui a Bruxelles, quindi vi invitiamo a dare uno sguardo a questa intervista. Vi spiego un po' qual è stata la genesi di Bruxellando, l'evoluzione, l'insieme, il cammino che da quasi un anno e mezzo vi accompagna e ci accompagna, e tante sono le novità che buonano in pentola per quella che sarà la futura Bruxellando, che comincerà a metà settembre di quest'anno, quindi del 2008, quindi 2009, scusate, quindi cominciando nel 2008, nel 2009 tante sono state le novità, i cambiamenti, e tanti ancora sono in vista. Quindi ringraziamo ovviamente tutti coloro i quali continuano a scriverci, a seguirci. Abbiamo tra l'altro superato le 1000 visite su questo nostro blog, quindi abbiamo credo inserito questo contatore di visite meno di un mese fa. Imola, correggimi se sbaglio, forse sì, nemmeno. Sì, un mese già comunque c'è. Ecco, quindi da un mesetto. Vale, un mese e mezzo, dai, non credo di più, e quindi vi ringraziamo di consultarci, di ascoltarci, e tra poco sapremo anche dirvi quale delle puntate vi è piaciuta di più, grazie a Dani M, che riesce sempre a scoprire tutta una serie di trucchetti del virtuale. Dani, un saluto anche a te, stasera ancora non mi sembra di averlo fatto, quindi insomma non me ne vogliate, e intanto quindi lasciamo la parola a Fiordaliso. E adesso faccio la mia propria sigla, Librangolo. Io faccio, dai, così almeno non sei sola. Grazie. E adesso, infatti, stasera mi dispiace tantissimo che non siate ungheresi, perché noi abbiamo un autore abbastanza speciale, di nome Jenő Reitő, nome d'artista P. Howard, che per qualche ragione rimase affascinato dalla vita dei legionari stranieri francesi, che non so se conoscete, in inglese si chiamano The French Foreign Legion, che ovviamente gestivano per un po' le colonie o le post-colonie nell'Africa. Questo scrittore scrisse una serie di libri, d'altronde da spiaccicarsi dalle risate. Chiedete soltanto se conoscete degli ungheresi, fate il nome e vedrete le reazioni. E in questi libri il deserto è protagonista. Il mio preferito fra questi, La Brigata di Ossa, purtroppo non esiste in altra lingua, ma ci sono almeno due libri in inglese, addirittura legalmente scaricabili da internet, di cui darò gli indirizzi rispettivi sul blog di Bruxellando per i Gourmand. Immagini come quello della legione invisibile che appare nel deserto come un miraggio guidato da una fiacre viennese con il tassametro ancora in funzione, accompagnato dal suono di marce dall'Aida e ascoltando comandi come «Rien ne va plus» e «Faites vos jeux», fa parte oramai dell'immaginario collettivo ungherese, possiamo dire. Però siccome come vi ho detto, la maggior parte di queste opere non sono accessibili in lingue straniere, comunque ritengo meglio se torniamo da deserti che sono accessibili a portata di mano a tutti. E infatti il deserto ci affascinano le distese immense di sabbia, il silenzio, le regole semplici della sopravvivenza, la capacità dei popoli nomadi di fare del deserto un compagno e una casa. Ci affascinano i misteri, le tracce di vita, di tempi trapassati, e questo paradosso della vita e dell'assenza di vita che c'è nel deserto. Sono tante quindi anche i riferimenti in letteratura, specialmente anche sul deserto come luogo di meditazione, di prova del carattere, di avventure. resisto un po' alla tentazione di parlare di nuovo di Paulo Coelho e del suo alchimista, siccome il suo protagonista fa un viaggio nel deserto e scopre il suo stretto legame con la natura, diventa un vero alchimista dentro il deserto, e quindi mi riferisco piuttosto ad un poeta preislamico di nome Shamfara, che trasmette il sentimento di libertà a ritmi meditativi del deserto. Quanti deserti piatti, spazzati dal vento, come la superficie di uno scudo, vuoti, impenetrabili. Ho attraversato a piedi, unendo il vicino col lontano, scrutando lontananze da cime, a volte rannicchiato, poi alzato in piedi, mentre le capre giallastre del monte pascolano intorno a me, sinuose come fanciulle avvolte in scialli fluenti. Nel Piccolo Principe, l'aereo di Antoine Saint-Exupéry precipita nel deserto ed incontra il Piccolo Principe, che gli mostra il mondo da un punto di vista semplice e sincero. Semplice e chiaro come il deserto, ma pieno anche di cose nascoste, come il deserto nasconde i suoi pozzi, che si possono trovare piuttosto con il cuore e non con gli occhi. I riferimenti sono spesso anche in romanzi di fantascienza. Qua vi ricorderei in chiusura l'opera di culto di fantascienza intitolato Dune di Frank Herbert, che parla di un mondo desertico di nome Arrakis. Il fascino e il mistero del deserto avvolge la storia e contribuisce tanto alla sua forza. E questo mondo senza risorse, che apparentemente senza risorse, che alimenta tutto l'universo con la spezia, che è una risorsa essenziale, e il suo popolo è abituato a questa vita dura ed è destinato a dare un nuovo senso a tutto l'universo alla fine. Maridia, sei capitata molto bene. Io di tanto in tanto devo anche fare gli onori di casa, quindi scusatemi, mi ero un attimo allontanata dal microfono. No, vedo che Dani M da quelle parti si agita perché vorrebbe suggerire una canzone musicale. La mia anima, tra il tuo sguardo e la sua fragilità, sta frullando in un vortice di pensieri, senza sosta, come in un viaggio nel deserto, tra fiori invisibili e acque cristalline. Non aspettare che arrivi un nuovo giorno per dirmi che mi ami, fallo ora. Cercami, amami, vivimi, baciami intensamente e guardami. Fallo come se fossi il tuo ultimo panorama, io sono cieca di te. Ho ritrovato questa poesia in internet, di cui purtroppo però non conosco l'autore. Mi è piaciuta moltissimo, mi sembrava essere un ottimo aforisma rispetto a quanto detto sul deserto, su questo luogo che ora illude, che ora nasconde, che ora però ti riporta alla vita tra tante diverse sfaccettature. Se solo pensiamo alle diverse tipologie di deserto che esistono, e che davvero mi ha fatto piacere riscoprire, perché avevo un po' dimenticato, insomma, una serie di nozioni apprese qualche tempo fa: deserto caldo, deserto freddo, deserto polare. Quindi tre definizioni addirittura, quindi tre tipologie. L'unica, ovviamente, l'unico neo che può essere ovviamente ritrovabile nei deserti è che per anni ovviamente c'è possibilità di mancanza di pioggia, quindi di siccità. Comunque, deserto caldo, deserto roccioso dove il sole è costituito da pietre o ciottoli chiamati con la parola araba di Amada. Può essere ghiaioso e quindi chiamato Reg, oppure sabbioso a dune chiamato Erg. Presenti nelle regioni tropicali, ovviamente sono caratterizzati da un'accentuata aridità, vegetazione ridotta o assenza, e ovviamente mancanza di corsi d'acqua perenni. Invece il deserto freddo, che chiamiamo impropriamente deserto temperato, è presente nelle regioni temperate più continentali, caratterizzate da fortissima aridità e da notevolissime escursioni termiche ovviamente, perché questi poi sono i giochi giorno, notte, poi in realtà alla fine i deserti di notte sono tutti quanti freddi. Invece il deserto polare è detto anche deserto bianco, presente nelle regioni settentrionali e meridionali a margine dei continenti boreali e Australia, quindi Groenlandia, Artide e Antartide, caratterizzate da freddo intenso e perenni distese di neve e ghiaccio. Il clima a cui ovviamente si associa tale ambiente è il clima glaciale, anche se a quanto pare questo clima glaciale effettivamente è ultimamente minacciato. Però ovviamente se esistono queste tipologie di deserto, esistono anche ovviamente delle popolazioni che vivono in queste terre. Pensiamo per esempio alle popolazioni nomadi dei Tuareg, che vivono nel deserto in tribù formate da poche persone, pari apparentemente tra i 30 e i 40 membri. Si dedicano soprattutto alla pastorizia e all'agricoltura, sviluppata nelle oasi, formatesi ovviamente quando l'acqua sotterranea affiora solo in zone ristrette. Pensate che per proteggersi ovviamente dagli intensi raggi del sole, i Tuareg devono coprirsi completamente, lasciando liberi solo occhi e bocca. Usano indossare il caffettano, che è una lunga veste coperta a sua volta da numerosi teli. Penso che i Tuareg siano abbastanza noti soprattutto per alcune fiction televisive. Però qui questa sera un po' mi voglio anche divertire. Allora, Daniele, stasera che sei leggermente così, mi sai dire qualche deserto del mondo? Dai! Uno solo però, il primo che ti viene in mente. Il deserto dei Gobi. Che bravo, Cina, tra la Cina e la Mongolia, bravissimo. I deserti in realtà poi tra l'altro costituiscono il 30% delle terre emerse e il 16% è costituito dai deserti caldi, il 14% dai deserti freddi. Quindi voglio dire, insomma, riescono ancora a costituire una superficie assai rilevante del pianeta. Se pensate che i deserti rappresentano 50 milioni di chilometri quadrati, cioè circa un terzo della superficie della Terra. Imola, invece a te cosa viene in mente se pensiamo al deserto? Quale deserto? Un deserto. Il Sahara. Il Sahara! Sahara! Che è quello più grande, con i suoi 7 milioni e passa di chilometri quadrati. E ovviamente è... Ma qualcuno sa cosa vuol dire Sahara o dobbiamo chiamare Georges Laurent? Io credo che qualcuno lo sappia cosa vuol dire Sahara. Dai. Sì. No, pensavo che la tua fosse una, no, un anzi, auto. Io chiedo a Georges Laurent, che se ci sta ascoltando, dai, ci riporterà la settimana prossima su quelle che sono le sue condizioni. Caro Giorgio, ti aspettiamo, perché come facciamo senza di te? Ve lo dici che ci abbandoni così? Però noi veramente ti aspettiamo con ansia la settimana prossima. Ebbene, allora, invece, ritornando ai nostri eventi, così ritorniamo un attimo seri, domenica, ebbene sì, si celebra la 30ª edizione della 20 km di Bruxelles, quindi il 31 maggio alle ore 15, partenza sull'esplanade del cinquantenario. Quindi immaginate, 30° anniversario nel 2009, l'anniversario è quasi obbligato, e ovviamente l'edizione di quest'anno sarà particolarmente festiva e a quanto pare l'organizzazione riserva delle grandi sorprese. Ovviamente avrà luogo in tutta Bruxelles, quindi potrete vedere sfilare questi coraggiosi maratoneti in giro per Bruxelles il 31 maggio e fino alle 15. Comunque, per quanti volessero saperne di più, potete rivolgervi al sindacato d'iniziativa Bruxelles Promotion, quindi al sito internet www.sibp.be. Per quando invece volessero chiamare, 02 511 90. E vorrei svelare un segreto a tutti i nostri ascoltatori di Bruxellando, che in realtà Giorgio Laurent stasera non è venuto in radio, adducendo la scusa della malattia o altre cose, perché in realtà si sta allenando. Sì, per la 20 km. Non solo per la 20 km, ma perché dovete sapere che George ama tantissimo le bici. Vero, Fiorita? Lui ama tantissimo le biciclette. Dovete sapere che eccezionalmente quest'anno, per la prima volta, è stata lanciata una campagna particolare che si chiama J'achète à vélo. Quest'anno, infatti, per approfittare della primavera e per fare i nostri acquisti in bicicletta, aumentando quelle che sono le possibilità di vincita di una bicicletta, c'è un'associazione che propone di partecipare ad un concorso. In che cosa consiste questo concorso? In pratica il celebre, come possiamo dire, designer Anversois, Walter van Beyrendonck, che ha creato una, che è praticamente famoso per le sue biciclette, ha creato quest'anno, specialmente per questa occasione, una bicicletta speciale, che si chiama Fold Funky. Pensate che tutti possono partecipare a questo concorso, ovviamente contribuendo per quelle che sono le cosiddette free dossier, di 14 euro. Questa bicicletta non si trova in commercio, quindi è soltanto un'esclusività, una, insomma, su, come possiamo dire, esclusività, quindi di questa manifestazione. Un'esclusiva. Un'esclusiva, noi, voilà, le jeux de mots. Così della regia. Ti ringrazio. J'achète velo, met Belgrinier Nard Winkel. Quindi per la prima volta tutti i commercianti della regione sono stati invitati a partecipare alla campagna. Per quanti ovviamente ancora non lo sapessero, c'è ancora possibilità di partecipare. Che cosa si può fare? In realtà nulla di più semplice, si tratta semplicemente di trovare quelli che sono praticamente i negozianti che già partecipano, oppure ovviamente di convincere chi volesse a partecipare. Ovviamente per ogni acquisto a velo presso questi commercianti si riceverà un francobollo, quindi ci sarà la possibilità quindi di poter collezionare più bon che poi permetteranno ovviamente questa grande estrazione a sorte e quindi la possibilità di poter vincere questa favolosa, io la vedo dalla foto, fantastica bicicletta. Ovviamente ci sarà un solo un seul tirage au sort che quindi determinerà i vincitori. Per quanti volessero saperne di più, j'achète à vélo.be, ovviamente c'è sia la versione francofona che quella fiamminga. Il tutto è già iniziato il 16 maggio, si conclude il 20 giugno 2009 e noi auguriamo ovviamente a quanti sono stati incuriositi da questa attività e che decideranno di partecipare, ovviamente good luck, best of luck. Scarpe nel deserto pesano sempre. Ed ecco che stasera vi proponiamo anche una raccomandazione cinematografica. E infatti ho visto poco fa il nuovo film di Pedro Almodóvar, Abrazo Sorotos, che quest'anno partecipa anche al Festival di Cannes e addirittura ci sono voci che corrono che magari stavolta abbia anche la possibilità di vincere, ma chissà, non si può veramente calcolare queste cose. È al suo 17° film, quindi magari a lui 17 porta bene, chissà. Chissà. Ed infatti è un film bellissimo, emozionante. Si tratta della storia di un regista cieco, che non cieco dal punto di vista cieco dalla Repubblica Ceca, ma che ha perso la vista, che per un regista è un dramma. Che deve confrontarsi con il suo passato. Il suo passato in cui è passata Lena, una ragazza che è costretta a una relazione scomoda con un signore un po' più vecchia di lui e che decide di fare l'attrice e quindi diventa protagonista del film di questo regista. La storia ha un fine tragico, purtroppo. Però c'è anche un messaggio di speranza. Non vorrei dirvi troppo del trama del film perché veramente vale la pena di vederlo. E infatti tutti i maggiori cinema di Bruxelles lo danno in questo periodo. Penelope Cruz è molto brava. A volte assomiglia tantissimo a Audrey Hepburn in questo film, a volte. Davvero? Davvero. Mio Dio. Sì, è strano, lo so, però a volte ci sono dei shot in cui la sua faccia è molto simile a quella di Audrey Hepburn, che probabilmente è una somiglianza voluta, non mi posso immaginare che non lo sia. E infatti c'è anche una referenza a film di prima di Pedro Almodovar, per esempio a quello di Mujeres al borde de un ataque de nervios. E quindi è un film pieno anche di referenze cinematografiche, quindi interessante, emozionante, bello, ve lo raccomando. Questa sera, poiché è una puntata un po' diversa, parlando di questo tema assolutamente insolito, quale è quello del deserto, abbiamo pensato quindi di dedicare anche un po' più di spazio ad una serie di arti di cui raramente riusciamo a parlare, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per mancanza di eventi. Invece questa sera vogliamo anche parlarvi delle arti plastiche. E Au Brasseur, a Liegi, Nathalie Noël si interroga sull'apparenza esteriore, mentre Laurence Derbeaux esplora i misteri interiori. L'una si interroga quindi sull'apparenza, l'altra sull'immagine esteriore. Entrambe ovviamente cercano di andare al di là, cercano di esprimerlo attraverso quelle che sono ovviamente le loro composizioni artistiche. Entre le prescrits, quindi tra il prescrient della prima e invece i pezzi che vedendo dalle foto sono meravigliose, sono delle sculture in vetro di Laurence Derbeaux, altro non è che praticamente un omaggio a quella fragilità dell'essere umano di cui molto spesso noi siamo dimentichi. Invece Nathalie Noël è una fotografa e riporta invece in vita una serie di dettagli, di piccoli elementi, un po' di piccole cose che spesso sono un po' simbolo delle nostre imperfezioni, da uno spazzino per i denti, da una salvietta per pulirsi il viso. Quindi sono tutti quanti aspetti diversi che cercano di mettere alla luce, ovviamente da un punto di vista artistico, per l'appunto l'interiorità, ecco, quindi un legame col nostro deserto, perché molto spesso poi quella che è la bellezza oppure i segreti stessi non sono poi evidenti. Occorre ovviamente avere tanta pazienza e cercare di scoprire quanto c'è di più bello e complesso in quello che è poi il nostro essere umano. Noi quindi vi invitiamo veramente a partecipare a questa mostra, dove ovviamente si possono ritrovare più aspetti, perché voi direte sì, sicuramente c'è un viaggio interiore, sicuramente c'è un cammino personale. Qui ovviamente non può ritornarmi che il nostro amato Paolo Coelho, che tanto ha scritto e tanto ha detto in merito di quella che è la nostra leggenda personale. Tutti quanti probabilmente potranno ritrovare un proprio aspetto o legato a queste interiorità, oppure invece a quelle che possono essere definite, se vogliamo, le bruttezze esteriori, voi per un motivo, voi per un altro. Ci sono anche dei momenti che sono sicuramente meno belli, e ovviamente la bellezza di questa mostra è proprio legata alla complessità dei temi legati e soprattutto alla diversità che poi sembra dividerci, ma tutto sommato altro non è che un unico filo rosso. Questa mostra si potrà visitare fino al 27 giugno a Brasser, Rue de Brasser 6, a Ferron Street 105 a Liegi, dal mercoledì al sabato dalle 14 alle 18, e per quanti invece non potessero in queste ore possono farlo prendendo un appuntamento. Quindi c'è anche la possibilità di avere un appuntamento direttamente con gli autori di questa mostra. Quindi per saperne di più, Brasser annex.be oppure 04 221 41 91. Come dicevamo prima, quindi il deserto è sempre ovviamente un territorio impervio da cui però possono esserci tantissime sorprese. Invece, per rivenire sempre a queste differenti arti di cui noi parliamo poco, parliamo anche di teatro. Teatro, ci tenevamo a sottolineare invece una, come possiamo dire, una pièce teatrale che avrà luogo il 26 e il 27 giugno prossimo, Carosello d'Amore. E vi invitiamo quindi a partecipare. George, che non è qui questa sera, sicuramente avrebbe potuto darci più dettagli in merito, e sarà lui la settimana prossima che vi dirà come nasce questa pièce teatrale, chi sono i protagonisti. Intanto possiamo dire Carosello d'Amore sarà organizzato da Niemme, correggimi perché la mia memoria ultimamente è un po' labile, alle Spasso in Gore, alle ore 20 venerdì sia sabato, sì. Ed è possibile già da oggi riservare, quindi prenotare i biglietti per le due. E la regia mi pare che sia di La Raspata, no? Esatto, la regia è di Vito La Raspata, noi tutti già lo conosciamo, è sicuramente un esponente poliedrico e assai noto nel mondo culturale e teatrale italiano, e noi ovviamente facciamo un grosso in bocca al lupo e a Vito e a tutta la sua troupe. Dai, manca ancora un mese, però sicuramente saprete regalarci delle emozioni stupende, così come è avvenuto lo scorso anno. Ci sarebbe ma manca, sì, un mese, però è bene cominciare a parlare adesso, come fai tu, perché i biglietti vanno a ruba, che poi va a finire come altri eventi che abbiamo potuto partecipare, perché purtroppo solo due serate, perché non abbiamo trovato lo spazio per partecipare. O come si può fare? Invece un altro grande evento che ci sarà tra il 18 e il 21 giugno è la Festa della Musica, organizzata dal Ministero della Cultura e dell'Audiovisuel in collaborazione con il Consiglio della Musica. Ovviamente è un evento di cui avremo modo di parlare nelle prossime settimane, però ci sarà di tutto, e l'evento non è soltanto ovviamente a Bruxelles, ma è un po' dappertutto, anche in Vallonia. Per quanti comunque volessero già saperne di più, FET della Musique può andare. Per avere ulteriori informazioni 02 550 13 20. Ci sono tanti ospiti, ovviamente ospiti che sono dedicati anche alle diverse fasce giovanili, quindi se suggerisco un nome piuttosto che un altro sicuramente non rendo omaggio a quelle che sono le personalità invitate per questo evento. Per concludere, essendo questo l'anno del fumetto a Bruxelles, essendo quindi il 2009 l'anno dedicato al fumetto, fino al 28 giugno c'è la più grande esposizione del fumetto che sia mai stata organizzata in Belgio, quindi www.bruxellesbd.com. penso che ne abbiamo già più volte parlato, però è bene ricordarlo. La mostra ha luogo al Museo Reale delle Belle Arti e ovviamente è disponibile visitabile fino al 28 giugno prossimo. Allora, noi siamo alla fine, io vi ringrazio cari amiche e cari amici per averci ascoltato anche questa sera. Ringraziamo Dani e me in regia. Grazie e buonasera a tutti. Stefano e Paolo per i loro meravigliosi suggerimenti musicali. Devo dire la verità, impariamo sempre tante cose, da un punto di vista artistico e da un punto di vista strumentale. È anche poi interessante il percorso ed il cammino che riescono a regalarci da un punto di vista musicale. Salutiamo George, che non è potuto essere qui con noi questa sera, ma che sicuramente avremo nuovamente martedì prossimo. Ovviamente Fiordaliso, la quale, come tutti i martedì, ci ha regalato stupende perle di saggezza nonché utili suggerimenti di lettura, e ovviamente la sottoscritta Maribì vi saluta e vi aspetta numerose come al solito, e sul nostro blog. Daniele, mi ricordi per piacere il link? Allora, il blog è radioalma.blogspot.com, dove potrete ascoltare i podcast delle puntate, mentre per quanto riguarda i contenuti della trasmissione è brussellando.blogspot.com, e come ha detto Mari di prima, abbiamo sorpassato il muro delle 1000 visite, che direi che va festeggiato. Benissimo, grazie a tutti e buona settimana, e speriamo che ritorni il sole. Ciao! Ciao! Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.